E viratevi. Qui è Alex Fotti su radiovirus.org. Trasmetto dalla cameretta qui a Milano Nord. La primavera avanza, un sole timido si affaccia fra le nubi grigie. Il picco dovrebbe essere oltrepassato per Milano e la Lombardia, tanto che è stata addirittura pubblicata una data in cui non ci dovrebbero essere nuovi contagi, cioè il 22 aprile. Quindi addirittura non solo da sperare in un primo maggio fuori, con la mascherina si intende, ma magari anche una vera liberazione. Ma abbiamo una breaking news, parrebbe che Cairo sia contagiato anch'egli dal virus. E allora, sarà stato per aver annunciato quei dividendi? E la sfiga assassina lo perseguita? Ma no, cari amici e cari amiche, questo è un pesce d'aprile, il pesce d'aprile di eviratevi. Ci ha molto colpito che Cairo abbia deciso di farsi bello dicendo che le sue imprese vanno a gonfie vele grazie al coronavirus e che abbia distribuito dividendi record, tanto che il consiglio di redazione del Corriere della Sera ha pubblicato un comunicato di protesta. Altre grandi aziende hanno deciso di non distribuire utili quest'anno, come per esempio Banca Intesa e altre. E comunque, oggi è il primo aprile e non è solo il pesce d'aprile, bensì è il rent strike globale, sciopero degli affitti contro i proprietari esosi, sciopero degli affitti perché siamo tutti precari e non abbiamo reddito e non possiamo pagare. E quindi il grido del rent strike risuona da un oceano all'altro, dagli Stati Uniti, dove sono sorti i comitati in ogni grande città, all'Italia, Bologna è molto attiva, a Londra e in altre grandi città. Stasera alle 18 ci sarà anche una protesta in tutti i balconi d'Italia per l'amnistia e l'indulto, per svuotare le carceri e impedire che il Covid si diffonda fra i detenuti a quella velocità mortale e omicida che abbiamo visto in queste settimane. Quindi la gente batterà sulle padelle, batterà le ringhiere dei balconi per aprire il gabbio, fare uscire le persone, permettere alle persone di curarsi e difendersi. Rent strike, oggi, 1 aprile. E adesso faccio una piccola pausa e sarò di nuovo con voi presto. Questo programma va in onda un giorno sì e un giorno no, e quindi questo è il giorno sì, evidentemente. Ci rivediamo fra 48 ore, ma adesso attendete per la seconda parte del programma. Ciao! E viratevi, qui Alex Foti su radiovirus.org, la radio di movimento di tutta Milano, che dà voce ai diversi soggetti in una situazione di comunicazione distribuita. Se avete un programma da proporci, se avete un'idea da sviluppare, un contenuto da riproporre, siamo qui, radiovirus.org, in ogni casa e soprattutto in camera tua. Allora, in questa eterna antenna siamo di nuovo qui a commentare questo primo aprile 2020. È finito il mese più lungo dell'anno, ma come ci dice T.S. Eliot, aprile è il mese più crudele. E quindi oggi Rent Strike da Londra, un'immagine, un lenzuolo bianco su una uscita di sicurezza. Una eritrea americana ci dice: non pago l'affitto questo mese e così dovresti fare pure tu. Poi abbiamo un poster anarchico da Montreal, Rent Strike beginning on April 1st 2020. A proposito, il primo aprile si dice April Fool's Day in americano, cioè lo sciocco d'aprile. Ed ecco qui il vostro sciocco d'aprile su radiovirus.org. E quindi questa bandiera rossa con le scritte nere ha due A di anarchia e sotto un banner che dice: For a world without bosses, landlords or cops, the worst epidemics. Per un mondo senza padroni, proprietari di case o poliziotti o sbirri, le peggiori epidemie. Beh, insomma, il Covid mi sa che è peggio anche degli sbirri. All coronavirus is our bastards. Niente, sto scrollando il mio feed di Twitter, come usuale ormai in questo programma, che va in onda un giorno sì, un giorno no, e anche una struttura musicale che, insomma, gli abitué del programma avranno capito, cioè una struttura panino. Lo stesso artista musicale apre e chiude la puntata, e al centro c'è, e ci sarà sempre verosimilmente, It's a Beautiful World dei Divo. Questa è la prima e ultima volta che vi svelo l'arcano, quindi fatene tesoro. E niente, qui abbiamo una notizia storica, perché, però purtroppo anche covidica, perché l'ultimo veterano della Neuve, la compagnia di soldati repubblicani che fu la prima a fare il suo ingresso all'Arco di Trionfo a Parigi nel 1944, nella Parigi liberata dai nazisti, Rafael Gomez Nieto, è morto a 99 anni di coronavirus. Riposa in pace, compagno. Niente, LSE, London School of Economics, Review of Books, ripropone una lista di testi sulle epidemie nella storia e nelle scienze sociali. Recensì anche il mio libro di due anni or sono, ormai tre, General Theory of the Precariat. Niente, in Francia un problema, il femminicidio ha conosciuto un'impennata durante la quarantena, un problema che conosciamo bene in Italia, che affligge anche la Francia, al punto che di fronte a un aumento del 30%, alle donne è stato dato un codice segreto che possono dire alle farmacie e fare intervenire gli assistenti sociali, fare intervenire sostegno, ottenere subito un domicilio. Vengono subito rilocate in hotel requisite dal comune. Niente, qui invece il collettivo di Riders Para Derechos di Valencia, con l'hashtag Glovomata, appunto dice che con i suoi avvocati sta facendo una causa collettiva per messa in pericolo dei rider spagnoli. Niente, qui invece un post divertente, visto che ovviamente siamo tutti quarantenati, non si può andare in piazza, anche i gilets jaunes sono sospesi, anche le proteste contro Macron sono sospese, e quindi questo Ambrogi, mi pare, ha pensato bene di ricreare con i Lego una grande manifestazione con tanto di lacrimogeni, scontri, ci sono i celerini da una parte e dalle spalle e di fronte tutti i manifestanti, molto variegati peraltro, che dicono Macron démission e altri slogan divertenti, insomma. Appunto la notizia di femminicidio che commentavamo prima, ammalato da un mese in casa come se fosse una scusante, litiga con la moglie e la coltella. Niente, il rent strike è coinciso con lo sciopero di Instacart e di altri lavoratori della gig economy e di altri lavoratori della logistica dei supermercati. Instacart, fra parentesi, ha iniziato a mandare messaggi informando i dipendenti o i non dipendenti, visto che sono gig workers, che possono essere stati esposti al virus, quelli nei casi in cui altri compagni o compagne sono state contagiati. Comunque, di fatto, oggi la Instacart app negli Stati Uniti era down, non era possibile assolutamente acquistare bene, farsi fare la spesa dai precari, e quindi lo sciopero è stato un successo. Così come un altro sito che era down oggi, e lo sapete tutti, is the talk of the day in Italia, è il sito dell'Inps. La richiesta del bonus Covid da 600 euro ha mandato in tilt il sito, che è stato anche colpito da un attacco hacker che ha rivelato tutti i dati personali delle persone che ne hanno fatto richiesta. Tridico ci dice: 100.000 richieste al secondo, il sito sarà riaperto ma con orari diversi. Insomma, bisogna stare in fila all'Inps anche sul sito. Conte parla di hackeraggio del sistema, Inps down è di sicuro l'hashtag del giorno. Qui c'è una foto divertente per il primo d'aprile, per il pesce d'aprile. C'è una persona, una hood piuttosto corpulento, che porta a passeggio un cane che però ha uno sguardo più attento, è una sagoma di cartone, e sta passeggiando sull'asfalto, e sull'asfalto c'è una lisca di pesce che respira bolle in onore del pesce d'aprile, molto anche poetico. Niente, tanti giornali americani si occupano dell'Instacart strike, gig workers rise. Lele Prox ci dice che Comics and Science ha messo in linea tutti i fumetti di Zero Calcare gratis. Da Milano in Movimento, la tragedia di Bergamo, l'intervista a una persona che è incaricata di recuperare i corpi dei defunti e trasportarli alla camera mortuaria dell'ospedale di Bergamo. Niente, qui una update dalle Brigate Volontarie per l'Emergenza Milano, sorelle, germe di futura umanità, di futura società a Milano, e non solo, visto che il loro esempio è mutuato in altre parti del mondo. L'ultima brigata a essere costituita è stata, e ce ne saranno di sicuro altre in futuro, ma la più recente è la Brigata Basaglia, cioè la brigata di ascolto, di emergenza, di assistenza psicologica alle persone che soffrono in quarantena, alle persone che hanno già una situazione di disagio psichico oppure ci sono caduti in questi lunghissimi giorni e giornate, notti dove non si dorme, giorni che non passano. La rete Reddito Italia del BIN, Basic Income Network, commenta: centinaia di migliaia di click assaltano il sito dell'Inps. Il popolo invisibile grida: reddito per tutti, 100 domande al secondo. BIN Italia, binitalia.org, vi consiglio di visitarlo, è assolutamente la punta di lancia del movimento per il reddito per tutti, che l'altro ieri, mi sembra, annovera un nuovo membro, Beppe Grillo, appunto, si è schierato per il reddito per tutti. Fatto è che i soldi non arrivano a nessuno, quindi grandi proclami, ma bonificate, spedite gli assegni circolari, fate in modo che le risorse arrivino sicuramente, velocemente alle persone. perché la gente non ce la fa più, non c'è più nulla da mangiare nelle dispense. E quindi il problema non è solo portare il cane e i bambini fuori, ma sopravvivere. Come sapete, c'è stato un allentamento del coprifuoco per poter portare gli infanti a respirare uno per volta, a vedere la primavera. La Lombardia però si oppone al governo centrale e dice che i bambini devono restare ancora chiusi in casa. Dunque, we're going on rent strike, un video da Olympia, vicino a Seattle, che è tradizione wobbly. Il fratello del governatore del governatore dello stato di New York, Cuomo, è risultato positivo al coronavirus. Era stato uno dei pochi momenti spensierati quando i due avevano fatto i figli italiani che si contendevano l'affetto della loro mamma. E purtroppo anche la famiglia Cuomo ha un contagiato. Del resto, senza misure di contenimento, un virus del genere arriverebbe a contagiare il 60% della popolazione mondiale. È il risultato di 1 su 1 meno R, dove R è il tasso di contagiosità, che senza misure di contenimento, nel caso del coronavirus, è 2,2, 2,3, insomma, altissimo. Dunque, crollano i mercati. La Lombardia appunto dice vale la nostra ordinanza, ma invece Crimi di 5 Stelle dice non paghino i bambini. Sì, no, in effetti voglio dire, i bambini dovrebbero avere più diritti dei cani. E allora, insomma, portate fuori i figli a pisciare. Niente, una notizia di... così, come dire, di commercio: i ristoranti a Los Angeles che sono chiusi potranno riaprire se si trasformano in alimentari. Va detto che ci sono tanti esercizi locali, mercati generali che fanno consegne a casa, e comunque andare dai piccoli negozietti, quando non siano il frutteto gioielliere, consente di non fare la fila e di andare in luoghi più sicuri. Ed ecco la notizia che dicevo prima: i detenuti gridano tutti salvi, tutti a casa oggi, 1 aprile, ore 18, amnistia e indulto, facciamo la battitura dai balconi come loro fanno contro quelle maledette sbarre. Niente, qui un giovane climattivista di Edimburgo, recluso in casa, ma non perde assolutamente la verba, ha lanciato oggi la campagna, il Climate Strike, per Save the Congo Rainforest. Non possiamo certo scordarci che l'Amazzonia e l'Australia sono bruciate alla fine del 2019, ma il piccolo Nicky ci ricorda che la foresta tropicale del Congo è la seconda più grande pluviale dopo l'Amazzonica, eppure la gente sta bruciando e la gente non è ancora sulla mente globale. Quindi Save Congo Rainforest, il suo climate strike. Trump, veramente ogni giorno più nazi, ci fa sapere che se ci sono fra 100 e 200 mila morti vuol dire che per lui avrà fatto un buon lavoro. Intanto situazioni di personale sanitario come in Italia senza protezione si moltiplicano e si apre un ospedale da campo a Central Park. Le misure restrittive del coronavirus fanno pensare a molti commentatori, fra cui l'amico e sodale Paolo Gerbaudo, il sociologo Paolo Gerbaudo, che è in attesa di pubblicare un libro perverso che sono sicuro sarà un double whammy, e notano come le misure restrittive sul coronavirus potrebbero dare nuovo impulso agli autoritari. Di sicuro Bolsonaro, ma anche Salvini, hanno conosciuto una battuta d'arresto, ma non si può mai dire del rettile Trump. Hashtag Molotov, Instacart Strike, sta funzionando. E qui un meme della Pimpa, i meme della Pimpa sono bellissimi perché sono lo scontro fra una visione autonoma, anarco, insurrezionale a volte, violentemente anticapitalista sicuramente, e eventi, e la, insomma, l'innocenza della Pimpa che dal 78 mi sembra è con noi. E quindi la Pimpa all'Inps che trova un 404 site not available. Stasera alle 6 si parla dello sciopero planetario con Emanuele Braga, uno degli animatori di Radio Virus, Abo di Piano Terra, Off Topic, Ape e quant'altro, e, insieme a Marco Baravalle del Clama Camp di Venezia, ovviamente in maniera distribuita e remota, commenteranno la notizia del giorno, che non è il pesce d'aprile, ma è lo social strike globale, di cui il rent strike è la sua parte più importante. La Gabanelli ha fatto un servizio pubblico veramente oggi, perché ci dà i dati inconfutabili sugli effetti dei tagli degli ultimi anni, dal 2011 in poi, ai danni del Servizio Sanitario Nazionale. Poi c'è un mio tweet, vabbè, di stamattina, appena sveglio. Oggi è rent strike e batti la ringhiera per l'amnistia. Il pesce d'aprile lo vogliamo fare a proprietari esosi e a chi ha smanie da secondino. Radiovirus.org. Non è un pesce d'aprile, è la radio di movimento di Milano. Sensation takes hold, then you know. Till the spirit, new sensation takes hold, then you know. Till the spirit, new sensation takes hold, then you know. Till the spirit, new sensation takes hold, then you know.